24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Assolutamente incredibile che io venga indicato come il paperon dei paperoni a spese altrui della Repubblica Italiana. Parole di Giuliano Amato, lo avete sentito, è assolutamente incredibile che io venga definito il paperon dei paperoni della Repubblica Italiana. Siamo sempre lì, le pensioni, cari italiani, le pensioni di Amato e le pensioni di tutti noi. Si guarda quello, ma si fanno i conti in tasca al vicino di casa, a quello che incontriamo al bar, al tassista che ci porta al lavoro, ci porta in giro, all'autista, a tutti che fanno i conti in tasca a tutti. Allora buongiorno, questo è 24 mattino, saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè lì pronto in regia ad aprire il nostro Parlamento. Sì, si può aprire il Parlamento? Nicole Minetti? C'è? Il caffè volentieri a tutti quanti. Ovviamente, sempre a offrire il caffè per tutti noi. Poi ieri l'ho vista in foto sui siti, anche i capelli ricci adesso, ogni riccio un capriccio, e va bene. Allora, oggi ci sono qui con noi a commentare le prime notizie dei giornali Silvia Brasca, che si è ripresa, non lo so se si è ripresa. Silvia Brasca del TG della 7, buongiorno. Buongiorno a tutti, ma non so da che cosa avrei dovuto riprendere. A me è finito il campionato, io l'ho twittato un mese fa, insomma, cari interisti, un attimo, adesso finisce il campionato e avete finito di perdere per un po', insomma, adesso come? Si può solo risalire, adesso ci rimbocchiamo le maniche. Sì, sì, ma sì. Dobbiamo fare. Mamma mia, sembri Berlusconi a parlarci, rimbocchiamo. No. Allora saluto con te, saluto anche Stefano Zurlo del giornale, buongiorno e ben buongiorno, svegliato, buongiorno Zurlo. Tu come vai a calcio? No, niente. Dobbiamo riprenderci. Ma sei interista anche te? Mannaggia ragazzi. Questo non sono attorniato. Allora, lo vogliamo sentire tutto quello di Giuliano Amato? Ma è una roba da veramente da psicanalisi, ma anche da psicanalizzare il paese. Ma perché? Ecco, prima di farlo sentire, perché Zurlo e Brasca? Zurlo, secondo te, perché il paese, o c'è nell'opinione pubblica questo diffuso, diciamo la parola proprio, odio nei confronti della pensione di Giuliano Amato? Ma probabilmente si cercano dei, come dire, delle sorte di capri espiatori di quello che non funziona, di quello che non va, e allora diventa un po' il... Si indica col dito, così tutti guardano il famoso dito e non guardano la punta dei propri piedi che è nel fango, non dire peggio, no? No, sì, anche perché è il famoso, quello del prelievo forzoso sui conti. Certo, va benissimo. Poi sai, Amato è uno di quei personaggi che a seconda dei momenti, in certi momenti viene definito il gran commis, salvatore dello Stato, e quindi nei momenti negativi diventa l'affossatore, quello appunto del... No, l'euro spremitore. Sì. Certo, non avesse raccontato, non avesse detto, come ha fatto di recente al Corriere, che la colpa del prelievo forzoso fu un'idea di Goria, che peraltro nel frattempo è morto, quindi non può smentirlo. Magari. Sì, però... Silvia Brasca, tu sei invidiosa della pensione di Amato, che non è, che tra poco sentiremo quant'è, 11.500 euro, credo, al mese. Secondo me della pensione di Amato si è parlato, parlato tanto. Tra l'altro mi sembra proprio che fu tirata fuori da Mario Giordano nel suo libro, ecco. E lì però si è fermato anche Amato. Cioè, quello che io rimprovero ad Amato non è quello di avere la pensione, perché è quello di non dire che non sono stati capaci di capire che quel sistema pensionistico, gli accumuli delle pensioni, così andava riformato. Lui continua a difendersi sul suo punto, ma non riesce a darsi una difesa politica del fatto che nessuno, se non lo tirava fuori un libro, se Stella non faceva la cala, nessuno ne avrebbe parlato, è chiaro. Andava fermata. Allora lui sul fatto gli può dare tutto in beneficenza, ma io ci credo, Amato è una bella... Lui dà in beneficenza, dà in beneficenza quello che prende da ex deputato. Benissimo, ma può darlo anche tutto. Il problema è che quando gli fanno questa accusa, lui potrebbe solo autoaccusarsi di non aver fatto niente, cioè che di una classe politica che era lì pronta all'accusa. Ma che lui è imbestialito per questa cosa, vogliamo sentirlo, era a Ballarò due giorni fa, imbestialito nel fatto che lo elevano a emblema del privilegio, e lui dice, tra l'altro per questo non sono potuto rientrare nei giochi adesso, né come premier né come Presidente della Repubblica, sentite Amato. Io l'ho detto mille volte che la mia pensione al netto non è bassa, è 11.300-500 euro al mese, quindi è piuttosto alta, ma sta sotto ampiamente il tetto stabilito dal governo Monti per i trattamenti retributivi e pensionistici ed ha pensioni molto più alte al di sopra di sé, che rendono assolutamente incredibile che io venga indicato come il paperon dei paperoni a spese altrui della Repubblica Italiana. Questa l'abbiamo sentita. L'Azzurro comunque dice sì, non è bassa, ma ce ne sono di più alte, poi sto sotto, però non mai che dica sì, effettivamente è una pensione che in questo momento in Italia è da mega privilegio. No, ma vedi, lui appunto, poi io tutti gli italiani se lo vedono con gli occhialetti che fa la lezioncina, che sembra che sia il vicepresidente in cattedra che ti dice guardate che appunto c'è gente che guadagna più di me, e questo naturalmente suscita rabbia. Poi lui secondo me ha un, come possiamo dire, un retrogusto un po' perfido, perché è ancora incavolato che ci sia il signor Letta al posto suo. Lui è rimasto, se non ricordo male, diceva presidente, sì, ma presidente non del consiglio ma del circolo di tennis di Orbetello, la grande tennista. No, ma tra l'altro Amato fece quella straordinaria lezione alla Luis che vogliamo far risentire, in cui parlò dei giovani, questo è un po' un inedito, l'abbiamo fatto sentire qui ma lo facciamo risentire, parlò dei giovani, udite bene, dei giovani e delle pensioni dei giovani. Così, sentite. Quando arriveranno al trattamento della pensione e si renderanno conto che hanno campato con uno slalom continuo a cui noi non eravamo abituati per tutta la vita lavorativa, e poi, sempre che non abbiano il problema dell'esodo e della mobilità intermedia tra la fine del lavoro e la pensione, si ritroveranno con una pensione con cui proprio non potranno vivere, una pensione miserabile, che li porterà dall'appartamento dentro l'automobile, se ne avranno una, per passarci la notte, come sta capitando. Ma come? Ma Silvia Brasca, ma come? Cioè, i giovani vivranno in maniera miserabile. Finiranno in un'auto, forse, dopo in uno slalom di lavori precari qua e là. Ma come? Cioè, tu sei lì con 11.500 euro e profetizzi questo futuro per i tanti giovani. Lo so, È così. Però a leggere i dati dell'Istat bisogna dire che no? Sì, la fotografia è quella giusta, la però... La fotografia è spaventosa, poi ahimè... Lui ha detto, ha parlato di pensioni, ecco, che è quello che, ma per un buon gusto, ecco, dovrebbe esatto, non so, Azzurro, a te, sai, c'è Letta che parla della generazione Erasmus, lui parla della generazione Clochard, insomma, mi pare la un po'... generazione Clochard, no, speriamo davvero sai, di no. Sai, quello che ti indica la foto e dice, vedi, quello che sta accadendo per terra sei tu, insomma, fa un po'... Allora, visto che noi siamo una casta noi giornalisti, adesso siamo quattro giornalisti, un po' sì. Sì. Sì. Silvia Brasca dice sì, siamo una casta. Oggi sul giornale, a pagina 3, tra l'altro l'articolo ha scritto anche Zurlo. Che succede, Zurlo? Hanno condannato il direttore, stiamo in primo grado, hanno condannato il direttore di Panorama, Mulè, e hanno condannato Marcenaro, giornalista anche lui di Panorama, per chi è che ha diffamato? Hanno diffamato Francesco Messineo, procuratore della Repubblica capo, di Palermo. Se posso dire, però è veramente una storia... Condannati, attenzione, al carcere, 8 mesi di carcere. E allora voi che avete avuto... Mulè è un anno per Marcenaro senza condizionale, il che vuol dire che la pena viene scontata. Naturalmente, se come dici tu, diventa definitiva in appello e poi in Cassazione. Ma adesso, al di là della ci sono due elementi. La vicenda è molto, io dico, curiosa, singolare, bizzarra per non dire altro... Perché qui che cos'è? È semplicemente un articolo del 2009 fatto appunto su Panorama, in cui loro facevano il solito viaggio reportage dentro la procura di Palermo, che tutti, credo gli italiani, come sanno della pensione di Amato, sanno che a Palermo Caselli, Grasso, la divisione, i Caselliani, i Grassiani e quelli e quell'altri, e poi con Messineo adesso... c'era una procura, come dire. Ma è che tutti gli italiani seguono le vicende della procura, no, di Palermo, però si sa. Però insomma tutti i giorni sui giornali, è ingroia, il processo quello, il processo quell'altro, la diaspora, quelli che se ne sono andati, e hanno raccontato queste vicende, come hanno raccontato il fatto che, insomma, hanno fatto una sorta di mappa, e come hanno raccontato il fatto che Messineo aveva un cognato indagato, insomma, un po' di storie che peraltro, ripeto, sono uscite su un sacco di giornali e continuano a uscire, perché queste storie di Palermo, che succede? Succede che Messineo si incavola, perché indubbiamente ne esce un po' un tantinello come un re travicello, no? Molto debole, con ingroia che viene avanti, che in qualche Sono stati condannati, cioè, dice, secondo il giudice hanno diffamato. I punti, scusami, rapidissimo, sono due. Il primo, appunto, che sono condannati, anche se, come abbiamo raccontato sul giornale, quando poi Messineo è venuto in aula per al processo per diffamazione e ha parlato, gli hanno fatto le domande, eppure De Francisci, che era stato a lungo procuratore aggiunto a Palermo, è venuto in aula, sostanzialmente hanno dipinto un quadro della procura di Palermo che è esattamente quello di quell'articolo e di tanti altri, veleni, faide, ma al di là della sentenza che si può contestare o meno, erano veri. La questione è che c'è ancora una volta il carcere, voi dite, dopo che avete avuto la vicenda in Italia siamo sempre allo stesso punto su tutto. La diffamazione è lo specchio, non voglio fare tanti grandi discorsi, ma insomma la diffamazione è lo specchio del solito pantano in cui ci muoviamo, per cui grandi chiacchiere, grandi fantomatiche riforme, e alla fine non si riesce nemmeno a modificare la legge. Che siamo alla riforma elettorale, ma siamo sulla riforma elettorale. Adesso sapete cosa arriva, poi Silvia magari ci dici cosa ne pensi del carcere dei giornalisti. Tu temi mai, quante diffamazioni hai avuto, Silvia Brasca, nella tua carriera? Ne ho una in corso. No, salvata due o tre volte negli anni scorsi. No, aiutiamo adesso... Silvia Brasca, chi è che ti ha diffamato? Chi è che ti ha querelato? È una storia della famosa telefonata gamberale per la storia della SEA, che la nostra Silviuccia Brasca l'ha querelata? Ma come si permette? Ma insomma, facciamo qualcosa per aiutare, cosa possiamo fare per aiutarti in questa? Ma non, mi difendo, un buon avvocato. Allora facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, rientriamo con la segreteria telefonica e poi dopo ci dici la tua anche sulla questione della riforma elettorale. C'è il Porcellinum che è comparso, io rido da tre giorni, il Porcellinum. 24 mattino. Oh Milan, bellissimo, oggi sono entrato da un cliente e c'era la lavagna, fornitori bravi e fornitori cattivi. Obbligo un'ora al giorno tutte le radio e tutte le televisioni a stilare una lista di tutti gli infami, ladri, bastardoni che ci abbiamo in giro per province, comuni, stato, accidenti a loro. Un'ora al giorno, obbligati, musichina bella sotto e i nomi, tutti in fila con quello che hanno rubato e dove l'hanno rubato. A saluto. Ha ragione Mauro Corona, siete una manica di stronzi. Le manifestazioni di Berlusconi contro la magistratura non c'era un poliziotto. Se scende uno studente in piazza viene massacrato perché gli studenti fanno paura. Come mai? Ciao, auguri, Buongiorno Milan, ma sono poche volte che parli così del suo lavoro, vogliono fare anche gli scopini. Ma perché è così disonorevole? Sembra sempre che è un lavoro ottimo. Buon stipendio, buon tutto, è un onore fare lo scopino, l'importante è lavorare in Italia e il lavoro te lo scegli dopo quando già ce l'hai. Ciao Milan. Alessandro Milan, ciao. Volevo dire che si parla sempre di Berlusconi e di Renzi. Berlusconi, mi chiedo, come mai i suoi senatori e deputati lo elogiano, lo amano e lo adulano come se fosse un dio? Invece è un vecchio bavoso che a me fa schifo. E Renzi, come si dice il proverbio, il cane che abbaia morde poco e lui non sa cosa fare da grande. Caro Milan, tutti voi ben pensanti dite che non si può inneggiare o parlare di violenza. Vedi le dichiarazioni fatte da Grillo. Allora bisognerebbe fare come hanno fatto i nostri politici, che in tanti anni hanno nascosto e tenuto segreto il letame presente nel nostro paese. Quello che dice Grillo è il pensiero perfetto di una parte degli italiani e voi lo sapete benissimo, fate finta di non saperlo. Vabbè, questi sono i suoni della nostra segreteria telefonica. Io non ho niente contro gli scopini o gli spazzini. Ieri leggevo un titolo che la stampa credo ha messo piuttosto a 40 anni, no, sulla storia della paghetta, piuttosto faccio lo spazzino. Ma era un titolo, ma certo che è un lavoro dignitosissimo, anzi un lavoro fondamentale per tenere pulite le nostre strade. Allora Silvia Brasca, tu in carcere non ci finirai, e questo... No, non ci finirò, e sul carcere ai giornalisti... insomma dipende dalle opinioni, dipende da che cosa fanno, ecco. Attenzione, tu dici beh, però è la diffamazione, questo adesso... lo so, difatti cioè ricordiamo, è stato condannato in primo grado il direttore di Panorama Mulè insieme a Marcenaro, perché hanno scritto qualcosa sulla procura di Palermo, il procuratore capo Messineo si è sentito diffamato, la condanna in primo grado è 8 mesi di carcere a Mulè e un anno a Marcenaro. Non ci andranno, vabbè. Fortunatamente il carcere non si augura a nessuno, questo. Potranno sempre lavorare con noi e leggere insieme a noi i ritocchi light che ci aspettiamo sul Porcellum, sì, entro luglio. Il Porcellino. Il ritocco light, devo dire che è una delle cose. Non voglio dedicarci neanche mezzo secondo. Oggi paginate sui giornali sul Porcellinum, ma io non voglio neanche dedicarci mezzo secondo. No, invece vi voglio chiedere questo: ma trovate così scandaloso, voi del giornale Azzurro, ne avete fatto una pagina, che Dario Franceschini invii un sms ai suoi amici dicendo per favore votate la mia compagna che si candida alle elezioni a Roma? Cioè a spese sue, immagino a dei suoi amici, a della gente che conosce, ha detto votate la mia compagna. Azzurro, che male c'è? Cioè è una roba scandalosa? No, male sì, era semplicemente un come si possiamo dire, un retroscena, un po' divertente, un po' gustoso di chiamiamole di cordate interne al partito, quindi sai, non c'è nulla di male, cioè non è che ha detto se votate la mia fidanzata vi do 10.000 euro. No, ma lì era un po' anche per, insomma, si anima un po' perché sta campagna romana è una noia mortale. È un po', non dico sottotono, perché sottotono è fargli un complimento. No, ma infatti si vota il sindaco della città più importante d'Italia. È una roba di sbadiglio mortale nel paese che non interessa a nessuno, no? Quindi abbiamo insomma cercato un po' di, secondo me, poi bisogna chiederlo a Sallusti, ma comunque sì, di vivacizzare un po' la storia raccontando sta cosa, questa specie di richiamo del cuore dentro le elezioni che smuove un po', insomma. Però la dice lunga, cioè adesso Sallusti insomma, la dice lunga sul clima che c'è nel PD, insomma, questa è una coltellata che gli è andata da dentro. Sì, un pochino sì. Dai, dire. Pubblicare sta roba, no? Poi l'ha tirata fuori Beppe Grillo, credo. Ma come fa a sapere Grillo che Franceschini manda i messaggi? Non lo so, c'è tutto una roba. Questa sarà la grillina del PD, no? La grillina. La Silvia mi pare che sia un po' quello, che ormai c'è, cioè, il PD è talmente un partito democratico che ormai sarà diviso in cento correnti, in cento... non dico tutti contro tutti, ma insomma se è già difficile mettere d'accordo Franceschini con se stesso, figurati se ne prendi due, tre o quattro. Eccoli, la stilettata di Zurlo contro il PD. Silvia, tu vuoi dire qualcosa? Ma a proposito, non tornerà mai su Twitter il direttore Rico Mentana, ha suscitato che fa? Di la verità, che è lì che dico no, scrivo un tweet, sì tweet adesso, c'ho voglia di twittare, ma ormai ha detto che non torna più. Ma insomma, penso che per farsi sentire, insomma, per poter dire a tanti migliaia. Però... molto si è divertito e penso che momento molto si sia stizzito. Si è stizzito, è così, è Enrico Mentana, è così, insomma, è fumantino. Ogni tanto proprio dice basta e basta. E poi il campionato dell'Inter non ha aiutato a metterlo in buon umore. Non ha aiutato a metterlo in buon umore. Va bene, io vi ringrazio, Silvia Brasca del TG della 7 e Stefano Zurlo del giornale. Chiudo facendovi sentire un Beppe Grillo pochi secondi per omaggiare così una grande persona che se n'è andata, Don Andrea Gallo. Non vorrei essere al posto di Dio quando sono trova davanti col sigaro. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan

dalle 8 e 18 minuti vogliamo parlare di un tema che fa molto arrabbiare voi ascoltatori quando lo sentite, quello del tema quello dei forestali in Sicilia. Io ci ritorniamo su questo tema che è stato tanto dibattuto e tanto descritto anche da vari articoli e inchieste della stampa. Voglio salutare il sindaco di Monreale, siamo in provincia di Palermo, Filippo De Matteo. Sindaco, buongiorno. Eccoci qua. Di che partito lo chiedo a lei, mi scuso? PDL. Allora, abbiamo letto sul Fatto Quotidiano qualche giorno fa che addirittura nella frazione di Pioppo, frazione di Monreale, ci sarebbe un solo mestiere che tutti vogliono fare, il forestale. Si parla addirittura di una percentuale, 2000 abitanti più o meno nella frazione, 383 dei quali a vario titolo sono forestali. Com'è possibile una cosa del genere, sindaco? Tutti. Le dico subito, innanzitutto bisogna geograficamente inserire la frazione di Pioppo nel nostro territorio. È una frazione che si trova a circa 7 chilometri dal centro di Monreale e si trova circondata da boschi, ma da sempre, non da ora. Sì, per cui la principale attività lavorativa per la gente di Pioppo è stata, sì, nei secoli, quella del bosco. Cioè loro hanno tratto le loro maggiori risorse dal bosco. Si sono tramandati, è uno dei fattori. Poi un altro fattore che le comunico, gli abitanti della frazione di Pioppo non sono 2000, ma sono oltre il doppio di 2000. 4000. Sono oltre 4000 gli abitanti della frazione. Però mi scusi, sindaco, diceva l'articolo, nell'intera regione Liguria ci sono 404 forestali, in Piemonte 406 forestali. Sì, ma bisogna capire che cosa solo a Pioppo questi, solo a Pioppo sono 300. Ma questi non sono impiegati, questi sono operai stagionali. Questi si tratta di operai che lavorano per la forestale, ma come lei sa la forestale ha delle fasce di 51 giorni e di 101 giorni, questi non sono dipendenti forestali, questa è gente che lavora alla forestale, molti di loro solamente per 51 giornate lavorative l'anno, non lavorano, non sono impiegati della forestale. Sì, però mi scusi, molti dei forestali in Sicilia lavorano anche 6 mesi, 3 mesi, 4 mesi, stagionali. In Sicilia abbiamo noi l'altra fascia che arriva 51, 101, 151 giornate lavorative. Ma il resto li pagherà l'INPS qualcosa, no? In che senso? Qualche contributo dell'INPS il resto dell'anno? E per il resto dell'anno, come lei sa, c'è la famosa disoccupazione, ma quella è una legge nazionale. Ho capito, ma chi la paghiamo? Cioè sempre noi, cioè l'INPS. La paghiamo a fuori di tutti noi. Sì. Ma se non fanno altri lavori, perché loro sono lavoratori stagionali, per cui sono dei braccianti agricoli iscritti là, non è che fanno solo questo lavoro. Mi ascolti? Sì. Cioè chi è che lavora 51 giornate lavorative con la forestale, evidentemente non può vivere. È chiaro. Evidentemente è costretto, finiti le 51 giornate lavorative della forestale, a trovarsi, se ci riesce, altro lavoro. Sappiamo che il momento è difficile, è un momento di crisi che non ci dà possibilità, quindi ognuno cerca di sopravvivere facendo altri lavori. Lei si immagina se una famiglia può vivere solamente con 51 giornate lavorative all'anno? Sì. No, e questo è chiaro. Quindi, però mi scusi, il problema dei forestali, immediatamente sul fatto che a Pioppo ci sono 350-390 dipendenti forestali. Sono effettivamente saranno dei braccianti che lavorano al turno. Sì, certo, saranno poi 51 giorni alla forestale, ma i numeri della Sicilia, al di là di Pioppo e al di là di Monreale, sono incredibili, sindaco, lo sa anche lei che sono incredibili, perché ci sono nella regione Sicilia, per esempio, a Godrano, sempre in provincia di Palermo, è un altro comune. È un altro circondato dalle montagne. Ho capito, ma mi scusi, ci sono 190 forestali. 190 forestali, dice questo articolo, che badano a 2000 ettari di bosco. Pensate che nell'intero Molise ci sono 152 forestali che badano a 158.000 ettari di bosco. Cioè, le proporzioni sono incredibili. Guardi che lei innanzitutto deve prendere il Molise, il Piemonte, la Liguria e la Sicilia. Il lavoro della forestale, glielo dice uno che quando ha fatto l'università in estate ha fatto pure il forestale. Lei è stato forestale? Lei è stato forestale. Le parlo di 40 anni fa, da giovane. Quando era giovane si era in... Il lavoro è completamente diverso. Da voi non non avete di bisogno le squadre antincendio che fanno in estate. E perché no? Su 24 ore, 24 perché ore. Perché in Molise non ci stanno rischi di incendio. Ma io credo che non abbiamo, in Liguria non abbiamo le stesse temperature che abbiamo qua. Ma come qua, in Liguria? Scusa, in Liguria... Non abbiamo gli stessi incendi che abbiamo qua da noi. Ma in Liguria, in Liguria gli incendi, guarda che sono una piaga incredibile, gli incendi in Liguria, Sì, però dico non abbiamo la stessa cosa, dico noi qua siamo riusciti fino adesso, non è la stessa, non è lo stesso territorio, e poi io non credo che con 198 operai, ma forse a lei parla di 198 perché qua bisogna stare attenta tra impiegati forestali, tra guardie forestali, dipendenti forestali, sì, operai forestali. Quelli a 51 io credo giorni. Io credo, guardi, io non conosco i dati della Liguria di cui lei parla, ma io credo, o del Molise, ma io credo che ci sia qualche errore, perché 198 di cui lei parlava, operai forestali che pensavano a 150.000 ettari, quante che era. Senta, ma per concludere, sindaco, perché questo è un tema sul quale spesso torniamo, non è che, come disse l'ex assessore regionale vecchio, gli incendi sono tanti anche perché qualcuno viene appiccato dagli forestali apposta? Guardi, questo non posso essere io a dirlo, questo succede, c'è succede. Un'autorità giudiziaria preposta, dicono a noi. Fino adesso dal punto di vista giuridico non è stato accertato nessun fatto del genere. Anche da diversi anni qua l'autorità giudiziaria, carabinieri, guardia forestale controllano passo passo il territorio, passo. Semplicemente trovato qualche piromane, ma non qualche hanno trovato piromane, casi di quello che dice. Comunque, sindaco, il piromane sia ovunque. Nel piromane ovunque, certo. Intanto il sindaco la ringrazio, poi torneremo su questo tema, il tema dei forestali, perché è un tema, come puoi immaginare, che fa infuriare abbastanza persone. Però dobbiamo chiarirlo. Vabbè, noi siamo qua. Fare in tutti i casi, ma non stamattina, ma un'altra mattina con dati alla mano. Io non ho avuto il tempo di raccogliere i vabbè, dati. Guardi, glielo prometto, lo facciamo. Lei procuri tutti i dati. Noi... Che venga, che non venga, cioè, guardato Pioppo come ma è giusto, ma difenda il buon onore, il buon nome della frazione di Pioppo. No, ma io volevo difendere perché tra l'altro è stata ed è la fonte principale di reddito per quella frazione. Ma no, poi mi scusi la battuta, Pioppo, nomen, omen, è giusto che facciano i forestali a Pioppo, se non li fanno a Pioppo che devono fare? Sindaco, la ringrazio per essere stato con noi. Filippo Di Matteo è il sindaco di Monreale in provincia di Palermo. Noi dicevo, raccontiamo due lati, insomma, di due storie. 23 maggio è la strage di Capaci, l'anniversario, 21 anni fa. Io mi sono arrabbiato, mi sono anche un po' incazzato, devo dire. Due giorni fa, quando ho visto a Ballarò, voi vi ricordate lo sfogo, il racconto che l'autista di Giovanni Falcone, Giuseppe Costanza, ci ha regalato l'anno scorso, dicendo: io sono stato con Falcone fianco a fianco fino all'ultimo giorno, ero lì a Capaci, sono saltato in aria anch'io, sono sopravvissuto e per questo nessuno mi ricorda, nessuno, tutti mi hanno dimenticato, le istituzioni in primo luogo. Per 20 anni non è stato neanche invitato alla commemorazione della strage di Capaci. Perché mi sono arrabbiato? Lo spieghiamo tra 5 minuti, quando ho visto due giorni fa Ballarò, ho visto Giovanni Floris, ho visto Piero Grasso e... l'autista, lo chiamavano, l'autista, senza neanche il nome, il cognome. E Giuseppe Costanza sarà con noi tra 6 minuti per raccontare ancora se è cambiato qualcosa dopo un anno. 24 mattina. E allora, ben ritrovati, eccoci da Alessandro Milan. Allora, dicevo, 8:33 minuti, che cosa mi ha fatto incazzare? Devo dirlo chiaramente, l'altro ieri, per la verità, quando ascoltavo Ballarò, c'era... la macchina di Giovanni Falcone, oggi è l'anniversario della strage di Capaci, 21 anni fa, c'è stato il racconto. Il 23 maggio della strage. 1992 Giovanni Falcone era alla guida di questa croma. Sua moglie Francesca viaggiava accanto a lui e il suo autista era dietro. Eccolo lì, sentite già bene le parole. Palermo, Giovanni Falcone, la sua moglie Francesca e l'autista. E già qui mi sono un po' indisposto. Poi c'erano Piero Grasso, presidente del Senato, e Giovanni Floris, il presentatore. E sentite Floris e Grasso, sentite bene le parole. Presidente, mentre continuiamo a vedere l'auto di Falcone che è esplosa, come diceva Daniela Bricca, lui aveva staccato le chiavi dal quadro per passarle alla guida un po' distrattamente, no? Pensando sì all'autista, dicendo prendila tu. E quella, l'autista. Quell'atto ha fatto rallentare la macchina. Il problema era che lui aveva le chiavi di casa e le chiavi della macchina e voleva restituire all'autista le sue chiavi e mettere l'autista nel quadro le proprie chiavi. Questo, allora lì proprio non ci ho visto più, ma io dico, ma caro Presidente Grasso e caro Giovanni Floris, mi sono molto arrabbiato lì, perché come si fa a dire tre volte l'autista, detto così genericamente, senza dire neanche il nome e cognome di questo autista, senza neanche dire soprattutto che questo autista, questa persona, era lì a Capaci, è viva, è sopravvissuta, è con noi, potrebbe raccontare. C'erano tanti ragazzi in quella trasmissione, stavano per partire sulle navi della legalità, magari a quei ragazzi avrebbe fatto piacere sapere che questo autista ha un nome, ha un cognome e che è sopravvissuto a quella strage, magari sapere che per 10 anni è stato l'ombra di Falcone, l'ha accompagnato dovunque, ne ha condiviso i rischi della morte quotidiani, ne ha condivisi tutte anche i timori, i pensieri, ed è una persona in carne e ossa che è con noi e che l'anno scorso è stata con noi e ci ha raccontato. Io ho deciso ogni 23 maggio, se c'è una persona che devo invitare per parlare della strage di Capaci, sarà sempre solo Giuseppe Costanza, che saluto e che ringrazio. Giuseppe, ben ritrovato e buongiorno. Grazie, buongiorno. Che tra l'altro devo dire, anche ieri ci siamo sentiti lungamente, non pensiate che sia stato facile convincerlo, perché io lo capisco, oggi è l'anniversario, Giuseppe Costanza era su quella macchina che è saltata in aria, e non è stato facile convincerlo a parlare, perché Giuseppe, tu mi dici giustamente, ma tanto che succede, è sempre la stessa storia, tanto lo Stato non esiste, questo mi hai detto, scusami se lo dico pubblicamente, sì, lo pensi? Lo pensi davvero? È così, in effetti io sono indignato per quello che, come si sono comportati negli anni passati e come si continuano a comportare, ma poi in una trasmissione come Ballarò, non lo so, forse hanno avuto accordi di non dire il mio nome, ma per quale motivo? C'è motivo, io non riesco a capire. Ma poi la seconda carica dello Stato, che mi conosce fra l'altro, autista, guarda che io sono un dipendente del Ministero della Giustizia in veste di conduttore di automezzi speciali, io non sono cosiddetto genericamente autista. Io guidavo quella macchina per 8 anni e ho rischiato la vita per 8 anni. E poi alla fine come vengo trattato? Intanto dopo l'attentato sono stato trattato a calci, proprio emarginato dall'ufficio, non sapevano più che cavolo farsene. Una persona che è rimasta viva, e ora che se ne fanno? Siamo dei numeri. Cioè trattati non lo so come. Ma tu dici, Piero Grasso tra l'altro lo conosci, Piero Grasso è stato capo della procura per la quale tu hai lavorato appunto. Io stando... l'ho conosciuto sin dall'inizio, e ora autista, ma io ho un nome, ho un cognome, ma che significa? Ma poi è vivo, è morto, non ne hanno parlato completamente, ma questo è un modo di fare? Poi per quale motivo questa ostilità? Sin dall'inizio hanno avuto questa ostilità nei miei confronti. Sì, perché forse bisogna dire, non lo so se però è così, vorrei chiederti conferma, forse 21 anni dopo è diventata più che ostilità sciatteria, cioè nel senso il non volere. Però ricordiamo che Giuseppe Costanza fin dal primo giorno non è mai stato invitato, fin dal primo anno neppure alla commemorazione di Capaci. Dimenticato completamente. La Fondazione Falcone per 20 anni mi ha completamente ignorato. So che l'anno scorso, dopo l'intervista che facemmo qui, nella quale tu hai raccontato tutte queste cose, arrivò in extremis l'invito, è vero? Cioè ti ha chiamato Maria Falcone, che è la sorella di Giovanni Falcone. Sì, dietro prima mi ha chiamato il ministro Profumo, invitandomi alla cerimonia, e io gli dissi che non avevo, me la sarei pensata, non avevo nessuna intenzione di presentarmi così a una manifestazione. Poi alla fine mi sono presentato lì, ma ho visto il comportamento, cioè c'ero e non c'ero era la stessa cosa. I ragazzi che oggi hanno 20 anni, che all'epoca chi era nato, chi è appena dico, ma questa informazione, queste realtà, queste verità non bisogna dirgliele. Cioè io sono vivo, io non sono morto, forse se ero morto venivo ricordato, già questo lo dimenticavo, perché bisogna morire in Italia per essere ricordati. Poi questa sceneggiata che si presentano tutti sul palco. Ma chi sono? Ma chi sono? Io ho vissuto una vita di guerra, io per 10 anni ho vissuto una vita di guerra, guerra fuori e guerra dentro, perché in casa avevo i miei problemi e fuori avevo gli altri. Ma tu, Piero Grasso, visto appunto che lo conosce, hai avuto mai modo di incrociarlo in occasioni pubbliche? Sì, l'ho incrociato lo scorso anno alla presentazione di un libro e con molta superficialità, quasi allontanandosi così, mi salutò, ma mi salutò con molta superficialità. Ma cosa gli ho fatto? Ma non soltanto a lui. A tutti, che cosa gli ho fatto? Ho chiesto i miei diritti, ho chiesto di essere rispettato per quello che sono, una persona. Tra l'altro vogliamo ricordare di quel giorno che tu tante volte hai raccontato, tra l'altro proprio oggi ne ricorrono i 21 anni, tu non hai grandi ricordi, cioè i ricordi finiscono proprio lì al momento dell'esplosione. Sì, i ricordi sono quelli, io... Mi sono seduto sul sedile posteriore perché la dottoressa Morvillo preferiva stare davanti. Allora il dottore si è posto alla guida, di conseguenza io dietro. Avviandoci verso Palermo, si chiacchierava più o meno cosa avrebbe fatto in questa sua venuta. Mi ha detto che arrivato a casa avrebbe continuato perché aveva con altri magistrati, non so dove, si dice ci vediamo poi lunedì mattina per tornare in aeroporto. Allora arrivato a casa gentilmente mi dà le mie chiavi così io possa riprendere la macchina. E quello è il momento in cui lui fa questo gesto? In quel momento lui, gesto. Non lo so, una sua distrazione, ha estratto le chiavi dal cruscotto e io lo richiamai dicendogli ma che fa, così ci andiamo a ammazzare. Lui annuì, mi chiese scusa e mi passò le chiavi e inserì le sue. Ma questo gesto tutto sommato mi ha salvato la vita perché ha rallentato la macchina. Certo, ha rallentato la corsa della macchina, e come raccontavano. Ma ti sei veramente chiesto tante volte del perché non queste dimenticanze di raccontare la tua storia? Forse sei una persona che qualcuno dice ha voluto dare fastidio una volta che ha voluto rivendicare quelli che tu dici sono solo i tuoi diritti? Sì, siccome c'è un'esperienza precedentemente alla mia, c'è stato l'attentato Chinnici nell'83. Il conducente di automezzi speciali, Giovanni Paparcuri, che è rimasto vivo, è stato dimenticato dallo Stato, addirittura è stato retrocesso a commesso. Io, avendo avuto questa esperienza, ho chiesto che non venga trattato come Giovanni Paparcuri. Questo allora glielo dissi alla buonanima di Paolo Borsellino, che venne, è l'unico magistrato che venne a trovarmi in ospedale. Mi ha detto, dice, non ti preoccupare, ci penso io. Disgraziatamente poi è successo quello che è successo. Certo. Di conseguenza poi io ho visto che la scia era quella di trattarmi come il precedente attentato, addirittura io sono stato retrocesso a commesso. Ma infatti che Stato è quello che celebra giustamente, come deve essere, le persone che non ci sono più, i morti, coloro che hanno dato la vita per lo Stato, e invece dimentica chi è sopravvissuto? Ma io penso che dovrebbero rispettare i vivi per ricordare i morti, per commemorare i morti, per far vedere che c'è uno Stato presente, che sì, è giusto, per carità, è doveroso che i morti vengano ricordati, ma ricordali attraverso i vivi, facendo presente quest'atto di civiltà, perché qui si tratta di civiltà. Questa gente che ha studiato una vita, alla fine si perdono nel nulla, nel nulla. Perché tu dici però lo Stato non c'è? È una frase molto forte sulla quale spesso abbiamo anche discusso. Ma me lo hanno dimostrato, guarda che io tutti gli anni ho rilasciato interviste per come mi venivo trattato, io addirittura per poter ottenere i miei diritti ho dovuto vergognarmi incatenandomi davanti al tribunale. Questa è una vergogna per me, ma è una vergogna per lo Stato che permette che io faccia queste azioni. Ma questo è lo Stato dov'è? Ma questi uomini che ci rappresentano, ma dove sono? Oggi io non vado in nessuna manifestazione, io non ci vado, perché non mi sento trattato, non c'è nessuno, niente, è così, è una cosa... Quindi tu oggi non andrai alle manifestazioni. Tutti questi ragazzini che mi invitano riempendo le navi, giusto, ve li portano a Palermo, ma perché non gli dicono la verità? Io sono vivo, io non sono morto. No, ma infatti è incredibile questa voce che non riesce a farsi sentire. Noi, ripeto, io lo dico, lo ribadisco, cioè qualsiasi persona, qualsiasi anniversario, in qualsiasi anno inviterò Giuseppe Costanza, finché non avrà il diritto a far conoscere anche la sua storia, che alcuni conoscono per la verità, ma pochi, non come dovrebbe essere conosciuta. Eccoci, con noi c'è Giuseppe Costanza, che gli ultimi anni, 9 anni di vita di Giovanni Falcone li ha vissuti in primo piano, perché era con lui, lo accompagnava ovunque, era con lui anche a Capaci il 23 maggio del 1992 quando ci fu l'attentato, ma nonostante ciò appunto incredibilmente viene dimenticato. Giuseppe, perché non vai alle manifestazioni di oggi? L'invito è arrivato, se non sbaglio, l'anno scorso e anche quest'anno, sì, dopo 20 anni, sì, di, sì, silenzio. L'anno scorso e quest'anno è arrivato pure l'invito, ma io non ci andrò. Non ci andrai. Non intendo presenziare lì così. L'anno scorso ho visto che io ero presente, ma nessuno si è completamente... Non si è posto il problema di dire qui c'è Giuseppe Costanza, l'unico sopravvissuto alla strage di Capaci. Ma quando mai? Niente, ero lì e non esserci la stessa cosa. Molta gente ci dice, ma tu cosa chiedi, cosa vorresti? Niente, io non chiedo niente, io chiedo rispetto, così come lo portano agli altri. Ma poi questa gente che si è messa sul palco senza... Io per 10 anni ho rischiato la mia vita, io, ma loro dove erano? Oggi invece sono loro sul palco e io completamente escluso, da tutto e da tutti. Addirittura quando qualcuno mi vede, parliamo di magistrati, con aria, sembra che li vedano all'altezza d'uomo, che ti guardano dall'alto in basso. E continuano senza nemmeno fermarsi, anzi no, devo essere corretto, un magistrato, faccio nome e cognome, come si chiama, Ignazio De Francisci, una persona così, guarda, era in gamba già al suo tempo, ma in gamba in tutto e per tutto, molto molto preparato, mi viene incontro, mi saluta con molto piacere, ma è una persona che dimostra una certa preparazione, una certa cultura, un suo bagaglio personale, ma poi gli altri fanno finta di non vedermi. Io non vado più nemmeno in tribunale, che ci vado a fare? Giuseppe, ieri non c'entra niente, poi non è che voglio farti commentare la politica, però ieri in un comizio Beppe Grillo ha detto questa frase: coloro che hanno ucciso Falcone e Borsellino ora ci governano. Una frase durissima, insomma, anche perché tu che ne pensi di una frase del genere? Beh, allora, io devo pensare che, attenzione, parte della politica probabilmente ha le mani in pasta, ma non bisogna generalizzare. Non lo so chi, perché questo lo stabilirà se ci riusciranno i magistrati, se ci riusciranno. Mi sembra difficile, perché queste stragi non verranno mai a capo di chi non la manovalanza, perché la manovalanza quella c'è, pagando. Quella in carcere sta pagando. Ma chi ha ideato una cosa del genere? Guarda, io ricordo le parole del giudice Falcone quando è venuto la settimana prima, dicendomi, in funzione a una sua, che cosa era? Aspetta un po', nomina, c'era una nomina in corso, mi ha detto, dice, loro non sanno con chi hanno a che fare, questo la settimana prima, la settimana successiva è avvenuta la strage. Ma quel loro, tu ti sei mai chiesto a chi si riferisse, con quel loro? Guardi, non lui non ha fatto il nome, quindi pertanto io non intendo certo. Pronunciarmi, ma penso che per lui esprimersi in questo senso aveva qualche dubbio. E sulle connivenze, diciamo, di una parte della politica con, certo. con la mafia. Ritengo di sì. Perché così come è avvenuta una strage in questo termine, no? Guarda, ritengo che non sia soltanto opera della manovalanza. Qual è il ricordo che magari non hai mai raccontato, che tieni più stretto del rapporto con Giovanni Falcone? Ma in confidenza lui mi diceva che avrebbe voluto passeggiare in via Libertà senza bisogno della scorta. Dice, ho desiderio di passeggiare senza bisogno di essere tutelato. Non ci ho riuscito. E questo non era possibile, era il suo diciamo sogno per capire che cosa, che come quando diceva in quella famosa frase la mafia, come tutte le cose umane, avrà anche una fine, era il sogno di ipotizzare che la mafia avrebbe potuto avere una fine. E probabilmente era questo, che lui sperava di riuscire a liberarsi di questo fardello che portava addosso e riuscire a essere un cittadino come tutti gli altri. Noi ci dobbiamo fermare qui. L'ultima volta, quando ci siamo sentiti l'anno scorso, tu hai raccontato questa cosa molto personale del fatto che da quel 23 maggio del 1992 tu non sogni più proprio fisicamente, o meglio sogni, ma non ricordi alcun sogno quando ti svegli la mattina. Non mi sveglio, ma non mi ricordo che cosa, cioè prima avevo dei sogni, durante la notte vagava la mente. E ricordavo perfettamente, da quando è successo questo attentato mi sveglio, perché qualcosa c'è che mi sveglia, ma non riesco a ricordare nulla. Ancora è così? Questa è una cosa che ancora mi porto dietro, purtroppo è così. E oggi, visto che non vai a commemorazioni, che fai? Oggi sono a casa e rimango a casa. Mi dispiace, perché i ragazzi dovrebbero sapere la verità, ma questa omissione che fanno, questa mi porta a dire che non vogliono che si sappia la verità. La verità è quella che io ero in macchina, io per 8 anni sono rimasto in macchina, ho rischiato la vita così come lo faceva sia la scorta che il giudice Falcone, e poi alla fine siamo dei numeri. Allora a questo punto io mi domando, ma valeva la pena? Per lui sì, perché se lo meritava. Ma oggi i ragazzi che rischiano la vita, ma perché? Alla fine per essere trattati così? Cioè, se si rimane vivi, essere dimenticati? E no. Certo, e questo ne vale la pena, e certo la domanda che lasciamo così in sospeso, ognuno tragga poi le proprie considerazioni. Io ringrazio e grazie davvero Giuseppe Costanza per essere stato con noi anche quest'anno, se vorrà l'anno prossimo, se io sarò qui e avrò un microfono, ci sarà anche Giuseppe Costanza. Grazie, potete riascoltare tutto su radio24.it e noi ci dobbiamo sentire domani alle 6.30. 24 mattino.